ma poi prende delle medicine che gli fanno venire sonnolenza, no? E quindi anche la patente gli hanno tolto, cioè va là è quello, manco la macchina può guidare. Figurati. Deve stare qua attento alla macchinetta, che c'è qualche ragazzino che gli ha rubi. Ah, ce l'ha sempre vicino la macchinetta, la bottiglia vicina dove si siede, capito? Poi in casa sua la entra dentro un cancello la macchinetta, quindi non è che gliela possano rubare. E comunque sono anche abbastanza velocine, quanto fa? 20-25 km/h. Ah, non lo so, non gliel'ho chiesto. Io vedo che cammina sempre piano. Ne incontro sempre uno anch'io, cioè, che fa la salita lì per andare forse al supermercato. C'hanno una specie di bandierina, ho visto, per farsi notare, ma quello che vedo io è anche molto anziano, avrà una 75 anni. Ma questo, 67 ne ha già, questo amico mio. Questo qui purtroppo è messo male un bel, è invalido al 100% quello. Purtroppo è così. Natale, tu adesso sei sugli 89-90 anni, così? Cosa? Io sono del 57, sono della classe di Walter. Sono quante Walter io? E quindi sei della classe mia. Classe di ferro, allora siamo coetanei. E quindi ci abbiamo gli stessi anni. E non sono pochi comunque. E vabbè, non saranno pochi, ma neanche molti. E vabbè, tra poco anche a me tocca dire ciao ciao al lavoro. E quindi sta avvicinando rapidamente. Quello è poco ma sicuro. Ma Beato che ci arriva. E infatti Beato che ci arriva, c'è gente che non ci arriva neanche alla pensione, figura. Non me lo dire a me, ci sono molti colleghi che non ci sono arrivati, quindi speriamo di arrivarci, ma sforzo di arrivarci tranquillo, anche se i presupposti non ci sono, ma come si dice, allertato e siamo tutti dentro il fortino cercando di resistere. E infatti io ti auguro di arrivarci e di godertela alla grande. Tra l'altro io rientro tra quelli che se ne potrebbe andare anche subito, ma siccome sono fesso, essendo fesso ci vorrei rimanere un altro anno, ecco. Due me li potrei già fare di tranquillamente, quindi praticamente mi rimane un anno praticamente. E invece io me ne sarei andato proprio, ma quando mai non sei stanco di stare lì? Cavolo, come mi si era presentata l'occasione me ne sarei fuggito. Lo so, non ti posso dare torto, però sai, quando il lavoro ti piace, perciò ti sì, è una passione. Non è così facile prendere e andarsene. Le condizioni per andarsene ce ne sono tutte, perché purtroppo sta cambiando tutto e non in meglio. Però sai, non è un filo che tagli così senza pensarci. Lo so. Dopo tutti manca il lavoro, è un casotto. Non ti credere che sia facile. Ma... è la stessa cosa di quando ho finito il militare, è stato un trauma. Quando era finito, figurati che mi svegliavo, caspita, la donata, poi mi ricordavo che l'avevo già finita, capito? E per molti, per qualche anno sono rimasto così, quasi l'abitudine era talmente tanta. Quando uno è abituato al solito tran tran, lui quando eri già congedato, accanto alla donata, cioè la donata, e tu avevi già finito. Eppure, è così. Poi anche questo vedendo in questo periodo, soprattutto che ti mettono a lavorare in modalità remota, eccetera, che non è tanto bello, che sembra essere in prigione quasi, col telefono sempre appresso in caso di chiamate, una penitenza. Boh, non lo so, Natalia, è una cosa che va pensata, ecco. Ci vuole un po' di preparazione perché i tempi sono quelli che sono, stare lì senza far niente, e poi non sono neanche sicuro che se te ne vai vieni sostituito, capito? Perché ormai parlano, però io di gente giovane assunta non ne ho ancora vista. Infatti bisogna vedere anche se viene sostituito, è un macello, perché questi tendono a non assumere a nessuno, è da voi, però il lavoro chi lo fa, Gesù bambino. Ma soprattutto poi è difficile, molto difficile trovare le competenze, capito? Quindi quando uno c'ha certe specializzazioni, è un po' in salita, ecco, tutto lì. E non è che prendi uno e lo metti subito a fare certi lavori, non devi mettere dei timbri, ecco. Devi fare cose molto più complesse, le devi fare al volo subito. Vabbè, staremo a vedere. Ok Natalia, e adesso ti saluto perché il dottore mi chiama. Quindi, dai, quando ci sarà occasione, anche se, ripeto, non è che oggi è stato quasi un caso, che sono entrato, però di norma preferisco accendere altri apparati, oramai, perché proprio mi sono un po', come si dice, diciamo stufato, dai, dal 27, e oggi è stata un'eccezione, anzi, ci è andata anche bene. Infatti, ne avevo anche la voglia di sentirti. Vabbè, quando ne avrai occasione fatti sentire, mi ha fatto molto piacere. Grazie per il QSO. Alle prossime, Gianfra, dai. Grazie a te, Natalia. Buona giornata e buona siesta, diciamo così. Ciao, adesso mi metto a cucinare qualcosa, alle prossime. Ciao, fatti roba buona, approfittane, ciao. CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno che ascolta? Attento compagno, da Esordia se ascolti la Sardegna, spiegate e comprende. CQ canale 10, c'è qualcuno? Attento. attento Luca, ci sei Luca? Attento Natalino, ci sei in ascolto? Attento Natalino, ci sei in ascolto? Thank you.